America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, grande preoccupazione a Washington, grande stato di allerta dopo le notizie degli attacchi terroristici non soltanto in Europa, ma dopo quello che è successo in Libia, dopo le ritorsioni militari da parte egiziana in territorio libico contro i terroristi. Insomma, da una parte abbiamo l'azione diplomatica che sta cercando di muoversi. A Washington, tra l'altro, proprio oggi comincia un vertice antiterrorista. In questo caso si parlerà soltanto di questioni interne, di come gli Stati Uniti possono proteggersi da infiltrazioni nel loro paese di terroristi dell'ISIS. Domani continueranno le riunioni a livello di ministri degli esteri e poi giovedì ci sarà l'incontro formale al quale parteciperà il presidente Barack Obama e il segretario di Stato John Kerry. Dunque c'è grande mobilitazione a Washington per cercare di capire il da farsi, soprattutto in reazione a quello che succede sul campo. Sentiamo il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Inna Misr tahtafiz nafsiha bihaqq ar-radd. Ecco, al-Sisi non solo ha rivendicato il diritto a difendersi dopo l'uccisione dei 21 cristiani copti egiziani che sono stati uccisi appunto dai terroristi dell'ISIL in Libia, ma ha autorizzato la partenza degli F-16, due ondate di attacchi che sono partiti ieri. Sono stati uccisi 64 combattenti dello Stato Islamico, sembra tre leader importanti di ISIL in Libia. L'azione continuerà naturalmente dal punto di vista militare egiziano e le parole di al-Sisi sono chiare, tutti dovrebbero sapere, ha detto che gli egiziani hanno uno scudo che protegge la sicurezza della loro patria, una spada che taglia terrorismo ed estremismo. E ancora, confermiamo che la vendetta per il sangue degli egiziani è un diritto assoluto e sarà applicato. Ecco, e perché vi parlo di Egitto? Perché improvvisamente l'azione a questo punto si sposta alle Nazioni Unite, si sta cercando di capire che fare per la Libia, e la Libia ci interessa in modo particolare perché, come sapete, questi estremisti islamici che hanno decapitato i cristiani copti lo hanno fatto in una zona più a occidente della Libia, quindi davanti, se volete, alle nostre coste, e come sapete hanno minacciato di arrivare a Roma. Arriveremo a Roma, conquisteremo Roma, dunque si stanno avvicinando a noi in modo pericoloso. Io credo che queste siano soltanto minacce, siano soltanto buttate mediatiche, però ovviamente è molto meglio cercare di organizzare un contrattacco, prima di tutto politico, perché cadere nella trappola della provocazione militare potrebbe essere un errore. E dunque qual è il percorso politico all'interno delle Nazioni Unite? Beh, a metà marzo scade la missione di Bernardino León, l'inviato del segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon. Direi che da indiscrezioni che ho raccolto ieri alle Nazioni Unite qui a New York, il mandato sarà rinnovato. Sarà rinnovato con l'obiettivo di continuare in questa sua, come dire, lotta politica, perché devo dire è faticosissimo per lui non soltanto essere in un territorio pericolosissimo, ma cercare di riconciliare due fazioni, due governi, ciascuno che reclama il primato di guidare la Libia, un governo a Tripoli, un governo di matrice più islamica, un governo a Tobruk invece di matrice più laica. E l'idea è che davanti a questa minaccia del terrorismo, la minaccia dell'ISIL, beh, forse è meglio che i due gruppi a questo punto trovino un compromesso per combattere il nemico comune. Ma domani ci sarà anche un evento importante alle Nazioni Unite, perché il ministro degli esteri egiziano Shukri verrà a testimoniare, a parlare davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per informare su quello che è successo, sulla posizione egiziana e sul futuro delle azioni egiziane per cercare di contenere questa avanzata dell'ISIL, un'avanzata che preoccupa moltissimo qui negli Stati Uniti. Yeah, absolutely. ISIS clearly is the face of radical Islam. Jack Keane, ex generale del Pentagono, capo dell'Istituto per lo Studio della Guerra, molto preoccupato, dice che l'azione militare dell'ISIS ha prodotto risultati dal punto di vista dell'espansionismo dell'Islam radicale che non erano mai stati raggiunti prima. Nessuno, ha detto, era riuscito a conquistare dei territori, delle sacche di territorio e a creare delle ramificazioni delle loro operazioni come hanno fatto loro dal West Africa alla Somalia al Nord Africa, arrivando ovviamente all'Iraq e alla Siria, ma arrivando persino in territorio asiatico di matrice islamica, in particolare in Malesia. Non c'è da stupirsi, dice il generale, che l'Egitto chieda aiuto. Il problema è che noi non abbiamo ancora una strategia precisa per come contrastare questa avanzata avanzata che per il momento sembra inarrestabile. Queste le parole del generale Jack Keane, che arrivano, come vi dicevo, alla vigilia di questo vertice per il terrorismo che era stato convocato da Barack Obama e che era stato annunciato addirittura durante il suo intervento all'ONU lo scorso settembre. So it's a very full and very ambitious agenda to expand and deepen a global coalition. Ecco, mi ha fatto sentire soltanto una voce, perché ieri ho avuto un preview, abbiamo avuto una conference call con dei funzionari della Casa Bianca, una conference call riservata, non possiamo comunicare i nomi delle persone con cui abbiamo parlato, ma ci hanno dato un po' una traccia di quello che saranno gli incontri di oggi, domani e soprattutto dopodomani. Ebbene, devo dirvi che sono uscito da questo incontro telefonico abbastanza sconfortato. Perché? Beh, perché le parole che sono state usate da questi funzionari della Casa Bianca sembravano su un livello diverso rispetto a quello in cui ci troviamo adesso, e cioè parlavano di un progetto a medio-lungo termine, parlavano della necessità di coinvolgere la società civile e di cominciare a far partire dei programmi di educazione per evitare che questo verbo, tra virgolette, estremista si diffondesse all'interno degli Stati Uniti, ma anche negli altri paesi occidentali. Ecco, devo dire, il piano sicuramente è ammirevole, ma capita nel momento sbagliato, nel momento in cui vediamo da una parte questi terroristi che tagliano le gole, che vanno prima all'attacco a Copenaghen di un bar dove c'era di nuovo un disegnatore colpevole di aver rappresentato Maometto, e poi vanno all'attacco di una sinagoga e fanno di nuovo un morto, due morti in tutto. Beh, e non ci si aspettano soltanto delle idee teoriche per coinvolgere la società civile. Credo che se l'amministrazione, dopo questo primo saggio, vi dico questo perché le reazioni dei giornalisti sono state piuttosto dure e violente, dicendo ma al di là di questa idea di coinvolgere la società civile e di fare dei programmi educativi, che cosa facciamo contro il terrorismo? E dunque io credo che da qui ai prossimi giorni dovranno cambiare rotta, perché non si potrà rispondere a queste azioni così violente, devastanti, di questi terroristi semplicemente con degli auspici che puntano all'educazione del pubblico e al coinvolgimento di coloro che possono sentirsi emarginati. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.